America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Siamo ormai a una settimana dal Natale. Il Natale a New York, devo dire, sempre straordinario. Non ne abbiamo parlato molto perché purtroppo ci sono state sempre altre vicende che in qualche modo ci hanno distratto, e devo dire la più grave, lo sappiamo, è stata quella che è accaduta in un paesino del Connecticut che si chiama Newtown, dove c'è stato un eccidio che ha travolto improvvisamente le vite di queste persone che credevano di essere nel posto più sicuro del mondo. E dunque questo è un Natale piuttosto triste che si sta preparando in America, perché, come abbiamo visto anche ieri, è un Natale caratterizzato dai funerali di questi bambini e l'avvicinamento naturalmente al Natale. Comunque sia, la vita va avanti e dunque noi vogliamo parlare di questo Natale. Le strade a New York sono straordinariamente affollate, come lo sono sempre durante il Natale. Il tempo tutto sommato è abbastanza buono, devo dire. Abbiamo avuto un po' di pioggerella, un po' di umidità, un po' di nuvole, così tipicamente invernali, ma non c'è quel freddo che ogni tanto ci attacca qui in questa metropoli esposta ai venti gelidi che arrivano dal nord Atlantico. Dunque la gente per strada così si muove, vede queste vetrine incredibili, da Saks Fifth Avenue a quelle di Macy's, a quelle di Cartier, a quelle naturalmente dei negozi italiani, da Ferragamo a Zegna, potrei continuare a nominarne mille altri. Quindi vi voglio rassicurare, il Natale a New York lo stiamo vivendo come sempre, lo stiamo vivendo con l'atmosfera di vero grande spirito natalizio. Sulla 57esima strada c'è sempre il grande cristallo di neve illuminato, alberi di Natale dappertutto, il grande albero a Rockefeller Center, e soprattutto che cosa? E soprattutto le canzoni natalizie, perché devo dirvi la verità che dovunque ci si giri, ci si volti a New York, si sentono solo queste grandi, tradizionali, straordinarie, strepitose canzoni natalizie, o quelle che canta un Babbo Natale dell'esercito della salvezza che sta cercando di raccogliere un po' di soldi con la sua campanella sulla Quinta Strada, oppure in tutti i negozi, nel taxi, in televisione, alla radio, insomma ci sono solo canzoni natalizie. E da noi? La verità è che da noi questo tipo di canzoni natalizie, così tipicamente americane, allegre, da Jingle Bell, da Reindeer, oppure quelle più romantiche, quelle più ispirate, insomma, da noi non ci sono. Forse proprio perché ci sono le canzoni sacre, come quella di Franz Schubert, l'interpretazione, tra l'altro, questa canzone è di Francesco Pavesi, un tenore che ha debuttato l'anno scorso a Carnegie Hall e che si trova di passaggio a New York e dunque è con me ai microfoni di America 24. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Allora Francesco, ma anche lei la vede questa atmosfera natalizia a New York o no? Certamente la vedo e la vivo tutti i giorni. Mi piace molto, quando sono qui, quando ho tempo, girare per la città, camminare, vivere un po' come un newyorkese. Ecco, ma scusi, lei che è, diciamo così, insomma, un interprete di musiche sacre, ma come spiega che noi non abbiamo questa tradizione di queste canzoni leggere, in fondo, natalizie, che però coinvolgono, commuovono e danno soprattutto questo grande spirito natalizio? Probabilmente lo spiego col fatto che noi in Italia abbiamo sicuramente una grandissima tradizione di musica sacra, partendo dagli autori classici, che possono essere per esempio Giuseppe Verdi, che ha scritto una straordinaria messa da Requiem, oppure altre cose molto conosciute, che forse hanno un po' rubato la scena, diciamo, a quella che può essere invece la produzione più pop, che è forse più consona appunto agli Stati Uniti. Rubato la scena o intimidito? Perché intimorito? Perché in effetti dice: ma io come metto contro Verdi? Certo, questo problema gli autori americani non ce l'avevano. Sì, questo è vero. Può darsi un po' tutte e due le cose. Sicuramente non è facile misurarsi con il tema natalizio, con il tema sacro in generale. Non è facile sicuramente dare un risultato che sia orecchiabile, che sia nello stesso tempo di sostanza. Che cos'è per lei il Natale a New York, nel momento in cui arriva qui e lo vede per strada. Il Natale a New York potrebbe essere banale dirlo, però è proprio un'atmosfera che si respira. Io dico l'atmosfera natalizia mixata con tutto quello che c'è normalmente a New York. Uno gira per strada, sente, come diceva lei prima, le canzoni natalizie, i jingle, i Babbi Natale per strada che cantano, eccetera, però mixato con quelli che sono i rumori normali per una metropoli come questa, le sirene, i vigili del fuoco, eccetera, il traffico, i clacson, e quindi questo dà una specie di commistione tra i due generi, secondo me. Beh, quindi ci ha già dato un'interpretazione musicale di questo Natale newyorkese. Ecco, però, scusi, a me risulta che lei è qui anche perché ha registrato e presentato proprio una canzone natalizia americana, o sbaglio? Sì, ho appena registrato, in parte in Italia, in parte qui, con una cosa particolare da dire, l'ho registrata con un complesso bandistico, quindi è una cosa un po' inusuale, anche se chiamarla banda complesso bandistico è un po' riduttivo, perché è una band che ha partecipato a eventi jazz molto importanti in Europa e in Italia. Io ho registrato con questo complesso bandistico di Fornovo questo Holy Night, che è un canto appunto natalizio famosissimo, e l'ho appena registrato e appena presentato su un'emittente radiofonica qui del New Jersey, ICN Radio, dove sono ospite spesse volte. Beh, senta, allora guardi, questa è una provocazione, perché lei l'ha fatta all'emittente radiofonica dell'ISN in New Jersey. Beh, spero che la voglia fare all'emittente radiofonica Radio 24 New York, America 24. La farei con molto piacere, certamente non ho scaldato la voce, no, è difficile prendere No, io per carità mi rendo conto, poi lei insomma è un tenore, un artista, però insomma non c'è uno strumento musicale, non le possiamo dare il là, ma perché non ce l'accenna? Ecco, così facciamo sentire ai nostri ascoltatori Holy Night, registrata da lei, una delle tipiche canzoni natalizie americane. Proviamo, maestro. Holy night, the stars are brightly shining, it is the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, he appeared and the soul felt his word. Beh, straordinario, bravissimo. Scusi, chiedo anche a Valeria, la nostra producer, di unirsi in un piccolo applauso, perché, ecco, visto che siamo in spirito natalizio, guardi, mi viene in mente una cosa. Lei deve sapere che ho un amico e collega che si chiama Giuseppe Cruciani, che lei conoscerà sicuramente, che conduce un programma molto importante sulla nostra radio che si chiama La Zanzara, il quale ogni volta che mi acchiappa magari nel suo programma mi provoca, mi dice faccio una canzone, e così si diverte a scherzare un po' con me. Io devo dire, mi diverto a cantare. Ecco, allora l'amico Cruciani mi dice: ma tu devi cantare. Allora io rilancio e chiedo a lei se è disposto, e così a consentire, abbassarsi, a fare una canzoncina, facciamo un piccolo duetto di una di queste canzoni americane. Allora io le propongo però una canzone, diciamo, forse un po' meno impegnativa di quelle che ha fatto lei. Lei conosce Silent Night? Sì, sì, sì. Beh, allora proviamo. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round your virgin mother and child, holy infant so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Mi dia un voto per un dilettante. No, è un voto, è una voce profonda, direi da baritono. Beh, la ringrazio. Senta, appoggiata bene. Senta, bene. Allora, Giuseppe, spero che tu l'abbia sentita. Magari la puoi rimettere anche nella tua trasmissione. Allora, continuiamo. Torniamo a chiacchierare un po' delle nostre cose e del fatto che lei è qui. E come mai un italiano viene e registra una canzone in America, soprattutto una canzone natalizia, per di più in inglese? È venuto in mente a lei, è venuto in mente agli americani? Come è successo? No, è venuto in mente a me e al mio collega Francesco Zarba, che è anche l'arrangiatore di questo brano per orchestra di fiati e voce. La sfida era quella di ricreare qui a New York, dove c'è il massimo dell'atmosfera natalizia, era quella di lasciare a nostro modo il segno, e speriamo di esserci riusciti.